Adesso Leonardo la prende un po' indietro, però arriviamo qui, sì, io faccio un intervento breve, spero breve, un po' più teorico, ovviamente non così addentro a questioni specifiche milanesi, però per dare un po' un contributo generale. Un intervento sostanzialmente su come alcuni spunti su come le trasformazioni urbane in corso del capitalismo impattano sulla vita quotidiana della città, su come le persone vivono gli spazi urbani, ovvero il fatto che l'urbanistica, intesa proprio come disciplina, ma anche tutte le trasformazioni economiche, sociali, di vario tipo, condizionano le forme di vita della città, il modo in cui le persone usano gli spazi, e il fatto che sostanzialmente inducono un uso sostanzialmente obbligatorio del tempo e dello spazio della città, e fondamentalmente arrivano a colonizzare l'immaginario della popolazione, per cui diventa, a seconda appunto delle trasformazioni, diventa impossibile vivere in modo diverso la città da come è stata concepita, ma addirittura in certi casi anche immaginare. E volevo dare questo spunto prendendo tre momenti diversi nella storia, anche molto lontani nella storia, però secondo me appunto in forma anche quasi aneddotica, però per far vedere come, nonostante i cambiamenti epocali, le trasformazioni, certe dinamiche siano sempre uguali sotto il capitalismo. Quindi un accenno alla Parigi di Haussmann nella metà dell'Ottocento, un accenno alla gentrificazione e un accenno agli ultimi due anni, alla pandemia, alla gestione della pandemia, ai lockdown, eccetera. Quanto a Parigi, vabbè, io do molte cose per scontate, poi ovviamente se non lo sono approfondiamo, però la Parigi di Haussmann, quindi la trasformazione della città di Parigi tra 1853 e 1870 è l'esempio, come dire, il modello di modernizzazione della città europea più importante e dalle conseguenze più evidenti per tutta l'Occidente. Per cui, tant'è che il personaggio come Walter Benjamin non a caso chiama quella Parigi la capitale del XIX secolo, per cui le trasformazioni della città legate alle trasformazioni del capitalismo industriale tra la prima e la seconda rivoluzione industriale sono quelle che hanno un impatto e funzionano da modello un po' per tutte le nostre città. E ora ovviamente io adesso mi soffermo su alcuni punti, perché chiaramente la trasformazione di Parigi rispondeva a tantissime dinamiche di tipo diverso, speculativo, finanziario, eccetera eccetera. Però alcuni punti, e in particolare uno che poi uso per collegarmi agli altri due momenti che ho scelto, secondo me sono appunto particolarmente interessanti in una chiave di attualità. Vabbè, tanto un paio di ovvietà, cioè che modernizzare, e questo secondo me vale allora come oggi, che modernizzare e rendere funzionare una città risponde agli ultimi due secoli, ma tutt'oggi, significa renderla funzionare ovviamente alla banalità, però in quel caso, in quel momento storico non lo era, alla produzione e alla circolazione delle merci, quindi era tutto il corollario del meccanismo fondamentale del profitto del capitalismo. E questo ovviamente comporta di conseguenza la marginalizzazione, la distruzione di tutto ciò che non è funzionale a questa produzione, a questa circolazione delle merci. L'altro punto specifico di quell'epoca, che però secondo me non è del tutto passato, è la funzione proprio esplicitamente militare e poliziesca dell'urbanistica, per cui la costruzione dei boulevard, la distruzione della città medievale di Parigi e la costruzione dei grandi boulevard non aveva ovviamente soltanto una funzione che veniva propagandata di abbellimento della città, di modernizzazione, della creare spazi aperti eccetera, ma aveva chiaramente una funzione militare di impedimento di nel boulevard passavano più velocemente le merci, ma passavano anche più velocemente cannoni e le truppe militari, che in una città come la Parigi di metà 800 non era cosa da poco, visto che il popolo parigino era insorto più e più volte e faceva, come dire, proprio della dimensione urbana un aspetto fondamentale della, delle possibilità insurrezionali. Un altro dei grandi, come dire, obiettivi che la modernizzazione di Parigi ottiene e che si ripropone nel tempo era appunto, e qui entriamo più nel campo della, appunto, della vita quotidiana, delle forme di vita, la disgregazione, tanto l'allontanamento del popolo dal centro città. Questo è un aspetto che da allora non è mai più cambiato, per cui appunto la città, il centro città deve essere il luogo dell'amministrazione, degli affari, del commercio, del turismo. Questo nasce nella Parigi di quegli anni, del consumo, e questo non, ovviamente, come vediamo anche oggi, non è più cambiato. Quindi la dimensione, come dire, sociale, pubblica, per non ritornare all'antichità, discorsi sull'agorà, però comunque il cuore della città viene esplicitamente espropriato da qualsiasi dimensione politica, sociale, intesa in senso nobile, non gli aperitivi. Questo comporta quindi la disgregazione dei quartieri, delle comunità proletarie, della Parigi dell'epoca, attraverso un fenomeno specifico. Cioè in quel caso, e qui la storia è un po' cambiata, o meglio, a volte sì, a volte no, però la distruzione, cioè la cosa interessante era la necessità storica in quel momento di radere al suolo certi quartieri, proprio fisicamente. Cioè, non si tratta solo di allontanare il popolo dal centro, il coloso, eccetera, ma proprio di distruggere i quartieri. E qua volevo citare, perché questo poi mi serve per fare il paragone con gli altri due momenti storici, che secondo me è interessante, un brano di Louise Chevalier, che è questo grande storico, sociologo, urbanista, sociologo urbano, scusate, che ha scritto questo libro bellissimo sulla Parigi di quegli anni, si chiama Classi pericolose, classi laboriose, nella Parigi della rivoluzione industriale. È un lavoro pazzesco di indagine appunto sociologica, letteraria, urbana, sulle trasformazioni di Parigi e proprio sulle trasformazioni che anche attraverso la trasformazione fisica della città avevano trasformato appunto le classi pericolose, sia criminali che rivoluzionarie, in classi laboriose, quindi disciplinate, abituate a diventare appunto lavoratori docili e allineati. E lui fa questo discorso a proposito della distruzione dei quartieri delle città, parla della memoria delle pietre e dice, parlando di una zona specifica del centro di Parigi, dice: le evidentissime e singolarmente durevoli caratteristiche sociali di certi quartieri, il comportamento dei loro abitanti, la sorprendente sopravvivenza di certi vecchi atteggiamenti sono probabilmente legate alle strutture occupazionali determinate appunto dall'assetto urbano e ad abitudini derivanti anch'esse per un altrettanto imperioso determinismo da questo stesso assetto. La popolazione di questi quartieri si inserisce in nuovi mestieri, nuove strade, nuovi alloggi, pur restando fedele alle tradizioni legate ai luoghi. Tradizioni che forse non sono determinanti in senso assoluto. Il fatto di vivere in un quartiere con una lunga tradizione criminale non trasforma necessariamente un uomo né si diventa automaticamente rivoluzionari per il fatto di abitare in un quartiere di barricate. Esse però creano occasioni e incentivi e insomma facilitano le cose. Mentre il permanere delle antiche strutture, vecchi monumenti, vecchie facciate, vecchie strade, vecchi caffè, vecchie casupole, vecchi teatri, assicura la continuità delle tradizioni morali, politiche e sociali da noi osservate, insieme a certi vecchi edifici scompaiono per converso anche le tradizioni e le immagini da essi tramandate e imposte. Demolendo l'antico quartiere della Cité fino a cancellarlo completamente dalla carta di Parigi, Haussmann distruggerà qualcosa di più che un mucchio di catapecchie e di tuguri e ed oltre che eliminare e disperdere i quattro angoli della città e fino alla più remota periferia un'orda di delinquenti, egli distruggerà financo le immagini evocate e provocate da quel quartiere e strettamente legate ad esso nella memoria dei parigini. Queste immagini passeranno dalla memoria collettiva ad un altro tipo di memoria, a quella tradizione pittoresca degli eruditi, cioè che più che una memoria è una delle più sicure forme di oblio. La necessità di trasformare Parigi, di renderla più funzionale alle esigenze del capitalismo, si associa a questa necessità di distruggere fisicamente alcune parti della città per sostanzialmente, come dice non sempre Chevalier, ma in un altro punto, per rendere la città estranea ai suoi stessi abitanti, in modo che appunto il popolo non solo viene spinto dal centro, dalla periferia, ma non può neanche più riconoscere il luogo in cui viveva, secondo le necessità che non siano appunto quelle imposte dal capitalismo. E da qui, facendo un salto temporale di quasi un secolo, agganciandomi a questo discorso della memoria, quella che Chevalier chiama la memoria delle pietre, secondo me è interessante appunto vedere in quest'ottica quella che appunto adesso viene chiamata la gentrificazione. Gentrificazione che appunto secondo le prime definizioni così di alcuni sociologi si risalgono a Londra negli anni 50, primi anni 60, e che poi si è diffusa a macchia d'olio ovunque, in Italia è arrivata magari un po' dopo, comunque di estrema attualità. Ed è perché è interessante secondo me questo discorso della memoria delle pietre, perché la gentrificazione sostanzialmente ottiene alcuni degli stessi obiettivi che otteneva la distruzione fisica dei quartieri della Parigi di un secolo prima, in un modo paradossalmente opposto. Per cui l'obiettivo che raggiunge è quello di allontanare, sgregare comunità, trasformare forme di vita, appunto, modificare l'uso, l'idea che si ha di uno spazio urbano, allontanando le comunità che magari che fondamentalmente abitavano quel quartiere da decenni, se non da più tempo. E trasforma appunto l'uso e l'immagine di quello spazio urbano in chiave utilitaristica, come sempre, no? Secondo le leggi del profitto. Però appunto la differenza è che non lo fa, rovescia la dinamica, non ha più bisogno di distruggere fisicamente un quartiere, ma addirittura fa il meccanismo opposto, nel senso che utilizza quella memoria delle pietre, e quindi degli edifici. Perché? Perché una volta che purtroppo quelle classi pericolose i decenni precedenti sono state storicamente, politicamente sconfitte, magari domesticate o comunque depotenziate nella loro potenza rivoluzionaria, non c'è più bisogno di radicarle non solo fisicamente ma anche nell'immaginario. E invece l'immagine di quella vita popolare che poi è alla base del successo della gentrificazione diventa una essa stessa una forma di merce, no? La vita popolare, di solito un quartiere in tante zone è un quartiere gentrificato, è un quartiere che appunto prima aveva una comunità, un quartiere popolare, proletario, con una vita abbastanza strada, abbastanza vivace, che adesso, come dicevo prima, do per scontate tante cose, viene, come dire, borghesizzato, la popolazione viene costretta ad allontanarsi appunto non attraverso forme coercitive ma attraverso dei meccanismi di pura speculazione, di puro mercato. E però appunto l'immagine della vita popolare diventa essa stessa, cioè diventa essa stessa valore, viene messa a valore, no? Diventa essa stessa merce. Quindi paradossalmente due meccanismi urbanistici completamente diversi, la trasformazione fisica radicale, l'abbattimento di certe zone e invece il suo mantenimento, la sua ristrutturazione, ottengono lo stesso scopo, a distanza di meccanismi capitalistici diversi a seconda delle epoche, però con risultati simili o pressoché sovrapponibili. E la terza immagine, così la terza fotografia che uso per dare questi spunti così per la discussione, invece la collego alla storia recentissima, alla pandemia, ai lockdown, alla gestione della pandemia degli ultimi due anni e mezzo. Perché secondo me è interessante per due motivi, nell'ottica di questa critica della vita quotidiana, nella prospettiva delle trasformazioni della città. Perché da un lato c'ha, soprattutto nel momento del lockdown, del marzo 2020, questa sospensione temporale della normalità, ci ha dato un'immagine della struttura, di come in realtà della nuda vita della città, di come appunto la metropoli capitalista abbia nelle sue radici la stessa struttura da un secolo e mezzo, cioè il fatto che banalmente nel momento in cui per mesi si poteva uscire di casa solo per andare a lavorare, a produrre e tra l'altro produrre certe cose, o per circolare per andare a lavorare o a fare attività strettamente necessarie, ha reso evidente in modo molto lampante qual è l'anima della metropoli e cos'è considerato superfluo, al di là dell'emergenza sanitaria, no? Tutta la questione sociale, la vita sociale, culturale, pubblica, è tutto immediatamente sospendibile perché superfluo. Nel momento del lockdown, però sia nel momento del lockdown che poi nella gestione della pandemia, secondo me ha aperto anche un po' una finestra su alcune trasformazioni del prossimo futuro, di tutta la i nuovi capitalisti chiamano le smart cities, e quindi le trasformazioni della vita urbana sulla base della digitalizzazione, della quarta rivoluzione industriale, delle nuove tecnologie, eccetera eccetera. Da un lato la vita pubblica, esterna, le strade, la vita sociale possono essere sacrificate nel momento dell'emergenza, ma parallelamente vengono spostate tra le mura domestiche. Questo vale sia per il lavoro che per le attività sociali, no? Il fatto che si possa lavorare in smart working, che si possa non andare al cinema perché hai l'abbonamento su Netflix, non andare a fare mille cose perché le puoi fare a casa tua, è uno spaccato non emergenziale ma legato esplicitamente alla progettualità di quelle che sono le città del futuro, per cui tutto quello, cioè più lo spazio esterno diventa superfluo o comunque sottoposto a delle dinamiche, delle forme di controllo, delle forme di accesso sempre più soffocanti, tanto più tu recuperi la libertà viene reclusa nell'ambito a casa tua fai un po' quello che vuoi, hai l'accesso a tutto il mondo, tanto più invece lo spazio esterno diventa una concessione e quindi essendo una concessione non più solo vincolata ai meccanismi del consumo ma anche proprio a delle forme di controllo sempre più oppressive, diventa sempre meno, come dire, accessibile. Quindi secondo me si sono visti in questi due anni due meccanismi interessanti. Da un lato appunto la riproposizione di alcune caratteristiche fondamentali della vita urbana. A me viene sempre in mente l'esempio del distanziamento sociale, tutta la scelta di questo termine, la sua propaganda incarna uno dei principi fondamentali della metropoli capitalista, che è quello dell'isolamento, della separazione tra le persone, del fatto di una fotografia precisa di un meccanismo storico fondamentale. E dall'altro lato questi sistemi di sorveglianza che possono essere in questo momento temporanei, legati all'emergenza, però esplicito e ufficiale da tutti i punti di vista, che in altre forme, con altri nomi, in altre forme, però sono alla base della smart city, della digitalizzazione, eccetera, come i QR, le app, le identità digitali, ovviamente rappresentano un salto di qualità della funzione militare urbanistica che poteva essere il boulevard di 170 anni fa. Quindi, banalmente, come dire, in questo caso la memoria delle pietre che ai tempi di Haussmann andava, come dire, cancellata per permettere una trasformazione dell'immaginario collettivo, e che la gentrificazione invece è riuscita a rimettere, come dire, a mettere a valore, in questa prospettiva diventa addirittura, si smaterializza, diventa virtuale, digitale. E non a caso, secondo me, appunto, quindi lo spazio urbano, la vita urbana diventano sempre più confusi, difficili da concretizzare. Tant'è che secondo me, appunto, l'esempio del Green Pass è lampante, nel senso che è la dimostrazione di come lo spazio reale diventa virtuale, perché se in rete navighi con una password, un nome utente, password, lo stesso meccanismo tramite un'identità digitale, che sia Green Pass oggi o un'altra domani, applica lo stesso principio per i luoghi della vita reale. Cioè, ti viene richiesto qualcosa per accedere ai luoghi che prima, anche fosse banalmente per consumare, tra virgolette, però non richiedevano quel tipo di passaggio.